Intesa San Paolo, Official Global Banking Partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. So over the next two days, we're going to discuss our shared future. The global economy that creates jobs and opportunity. Barack Obama al G7 tedesco in Baviera, un messaggio molto chiaro, molto duro contro le intrusioni russe in Ucraina. Il presidente americano è riuscito a tenere insieme l'alleanza europea e a tenere insieme soprattutto l'idea che ci sarà un rinnovo delle sanzioni contro Mosca. C'è un continuo battibecco politico naturalmente fra l'Occidente e la Russia, sono ripresi dei combattimenti. Io credo che da qui alla fine dell'anno si troverà una soluzione, ma questo certamente è stato un passaggio intermedio importante. Il G7 è ancora in corso, ne parleremo domani. Vorrei invece parlarvi di un paio di altre cose, intanto di un paio di notizie interessanti, importanti, che sono sopraggiunte nel corso del fine settimana negli Stati Uniti, e poi di un personaggio che ci ha lasciato, un personaggio che dal punto di vista simbolico ha rappresentato davvero un ponte transatlantico dal punto di vista della personalità e della sua grande umanità, cioè Mario D'Urso, grande collegamento fra Italia e Stati Uniti. Ma partiamo da un evento al quale Mario D'Urso, uomo di grande mondanità, avrebbe voluto essere. It's finally the one! American Foal has won the Triple Crown! Vi voglio raccontare questa cosa perché dal punto di vista sportivo si è trattato di un evento storico a Belmont, all'ippodromo di Belmont a New York, il premio Belmont Stakes. Si è fatta storia sportiva perché? Perché il puro sangue American Pharoah ha vinto il Triple Crown, che è un trofeo che viene assegnato al cavallo che riesce a vincere tre gare consecutive. L'ultima è quella di Belmont, subito prima Preakness Stakes, subito prima il Kentucky Derby. Sono dei concorsi che avvengono a distanza di un paio di settimane l'uno dall'altra. Pensate, era dal 1978 che nessun cavallo riusciva a vincere questa Triple Crown, e dunque omaggio a American Pharoah che dopo 37 anni riesce a rompere l'incantesimo. Altra notizia in evoluzione molto interessante, molto curiosa, una notizia che sembra un giallo: due ergastolani sono scappati in modo rocambolesco dal Clinton Correctional Facility upstate New York, vicino al confine con il Canada. Pensate, sono riusciti a fare dei buchi in queste pareti altri 10-12 metri e sono fuggiti. Non è chiaro dove siano, c'è un intero esercito di polizia, di truppe statali che gli sta dando la caccia. Sono pericolosissimi, entrambi condannati all'ergastolo per omicidio. L'America sta seguendo questa vicenda naturalmente alla televisione, perché non soltanto interessa capire questa evoluzione, questa fuga, questo inseguimento, questa caccia all'uomo, ma la popolazione locale è preoccupatissima che queste due persone possano fare molto molto danno. Questo è l'avvertimento delle autorità. Ma passiamo al tema centrale della giornata, cioè all'importanza del rapporto transatlantico e come a volte una persona da sola, grazie ai suoi rapporti, alle sue relazioni, riesce a rafforzarlo. Che esista non solo in America ma internazionalmente della speculazione molto avanzata dovuta anche alla liberazione dei mercati e grosse posizioni internazionali sia in America che in Asia. Questo è l'attacco al debito sovrano italiano. Ecco, Mario D'Urso è mancato, è morto venerdì mattina. I funerali saranno a Roma oggi pomeriggio, fra un paio d'ore. Devo dire che ci sono molte virtù da celebrare in questa straordinaria vita di Mario D'Urso, perché sul piano personale, devo dire, avrete visto storie sui giornali, molti lo ricordavano per il suo amore per le feste, per la sua grande eleganza, però c'era anche molta sostanza dietro il personaggio, e sul piano personale è sempre stato un uomo generoso, un uomo amato da tutti, a sua volta aperto nei confronti di tutti, che aveva una caratteristica, credo che dovremmo un po' imparare tutti, perché non distingueva mai nel modo di portarsi fra diverse classi sociali, cioè si comportava esattamente allo stesso modo sia che andasse a fare un acquisto da una bancarella a un venditore ambulante, immigrato, illegale a New York, sia che fosse a cena dalla regina Elisabetta. E proprio oggi, questo a me sembra il messaggio più importante, soprattutto considerando quello che emerge dal G7, questa riaffermazione delle tensioni con la Russia, del problema con l'Ucraina, dicevo, proprio oggi, in un mondo in cui sembrano prevalere la chiusura, la polarizzazione, i nazionalismi, e con l'insegnamento più importante, più attuale che ci resta da una vita che, devo dire, è stata vissuta in pieno, proprio come recitava una delle canzoni favorite di Mario D'Urso, cioè My Way. Ecco, uno dei suoi messaggi più importanti è quello dell'internazionalismo, perché D'Urso è stato l'uomo più cosmopolita che abbia avuto l'Italia negli ultimi decenni. Devo dire, era persino più cosmopolita del suo grande amico Gianni Agnelli, perché se Agnelli aveva molte relazioni personali costruite attraverso rapporti d'affari, Mario D'Urso aveva soprattutto profondi rapporti personali che a volte si traducevano in rapporti d'affari, ed era di casa dappertutto. Ecco, credo di non aver conosciuto un'altra persona che fosse di casa a suo agio a Londra, a Parigi, in Germania, in America, in Sud America. Ecco, ed è stato anche dal punto di vista economico un nostro ambasciatore, è stato nel governo Dini sottosegretario al commercio estero, ha dunque rappresentato l'Italia, ha rappresentato le aziende italiane, poi è stato eletto al Senato della Repubblica nel 1996, è stato senatore per un'intera legislatura, dunque insomma un uomo che si è molto dedicato, prima lavorando a Lehman Brothers, ecco, pensate, ha lavorato nella storica Lehman Brothers, ha cominciato quando era ancora a Kuhn Loeb nel 1968, si era laureato in legge all'università, alla George Washington University, aveva addirittura un trisavolo che era tra i firmatari della dichiarazione dell'indipendenza americana, George Clymer. Quindi anche grazie a questo suo passato molto, molto remoto, molto lontano, aveva delle importanti entrature negli Stati Uniti. Stamattina il ministro Poletti ha detto che parlava di questo signor Mario a cui volevano dare 300 euro. Volevo chiedergli, in modo che li avrei utilizzati stasera come contributo alla serata a favore di San Petrignano, avrei portato una persona in più. Ecco, questo è Mario D'Urso. Appena pochi mesi fa si era dedicato molto negli ultimi tempi alla filantropia, tema di cui parlo spesso qui a Radio 24, è un tema che lui ha cercato di portare e rafforzare in Italia partendo dal punto di vista americano. Era presidente dell'Unione dei Cavalieri Italiani della Legion d'Onore, quindi aveva organizzato molte cene benefiche a Palazzo Farnese, cercava di portare appunto questa energia che ha sempre animato la grande filantropia americana, che si trattasse degli alluvionati a Genova, Dinamo Camp, oppure i drogati di San Patrignano. Insomma, era un uomo elegante, come vi dicevo, eccentrico, è stato nominato da Vanity Fair l'uomo più elegante del mondo, lascerà un vuoto nella moltitudine delle sue relazioni, nella gestione del Sole 24 Ore, perché era anche consigliere del Sole 24 Ore, nei vari consigli in cui fu chiamato a servire, un vuoto, devo dire, nell'Italia intera, che perde oggi uno dei pochi suoi cittadini in grado di rivendicare, essendone ricambiato, di essere amico del mondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.